Mentre avanzavano sullo spesso tappeto, Buck Mulligan sussurrò a Heinz da dietro il suo Panama: il fratello di Parnell, là nell'angolo. Scelsero un tavolinetto vicino alla vetrina, di fronte a un uomo dal viso lungo, la cui barba e il cui sguardo incombevano attentamente su una scacchiera. «È lui?» chiese Heinz contorcendosi sulla seggiola. «Sì», disse Mulligan. «È John Howard, suo fratello». Nostro questore del consiglio comunale. John Howard Parnell spostò tranquillamente un alfiere bianco e il suo artiglio grigio gli ritornò alla fronte e ivi posò. Un istante dopo, di sotto quello schermo, i suoi occhi lanciarono un rapido sguardo splendente di luce spettrale al suo avversario e ricaddero di nuovo su un settore di manovra. «Prendo un melange», disse Heinz alla cameriera. «Due melange», disse Buck Mulligan, «e ci porti degli scones, del burro e anche delle paste». Quando si fu allontanata, disse ridendo: «Si chiama DBC perché danno biscotti coriacei». «Oh, ma lei ha perso il numero di Dedalus sull'Amleto». Heinz aprì il libro appena comprato. «Mi dispiace», disse. «Shakespeare è la felice riserva di caccia di tutte le menti che hanno perso l'equilibrio». Il marinaio con una gamba sola ringhiava in direzione dell'interrato di Nelson Street 14. «L'Inghilterra si aspetta!» Il panciotto color primula di Buck Mulligan sobbalzò allegramente al suo riso. «Dovrebbe vederlo», disse. Quando perde l'equilibrio il suo corpo. Angus Errabondo, lo chiamo io. Sono sicuro che ha una idée fixe, disse Heinz, pizzicandosi il mento soprapensiero tra l'indice e il pollice. Sto ponderando su quello che può essere. La gente come lui ne ha sempre una. Buck Mulligan si chinò gravemente sulla tavola. Gli han fatto smarrire il senno, disse. Con visioni dell'inferno. Non afferrerà mai la nota attica, la nota di Swinburne, di tutti i poeti, la morte bianca e la nascita rubizza. Questa è la sua tragedia, non sarà mai un poeta. La gioia della creazione, castigo eterno, disse Heinz, con un secco movimento della testa. Capisco. Stamattina l'ho toccato sulla questione della fede. Qualcosa gli pesava sull'animo, me ne sono accorto. È abbastanza interessante perché il professor Pocorni di Vienna ne cava delle conclusioni interessanti. Gli occhi guardinghi di Buck Mulligan videro arrivare la cameriera. La aiutò a sbarazzare il vassoio. Non troverà mai traccia dell'inferno nell'antica mitologia irlandese, disse Heinz tra le gioconde tazze. Sembra che manchi l'idea morale. Il senso del destino, della ricompensa o castigo. Piuttosto strano che abbia proprio quella idea fissa. Scrive nulla per il vostro movimento? Infilò abilmente per il lungo due zollette di zucchero nella panna montata. Buck Mulligan tagliò in due uno scone caldo e spalmò burro sulla sua mollica fumante. Ne staccò famelicamente un pezzetto con un morso. 10 anni. Disse masticando e ridendo, scriverà qualcosa fra 10 anni. Mi sembra un po' lontano nel tempo, disse Heinz alzando pensierosamente il cucchiaino. Eppure non mi meraviglierei se lo facesse davvero. Sorbì una cucchiaiata dal cono di panna che sormontava la sua tazza. Questa è panna irlandese genuina, presumo, disse con accondiscendenza. Non voglio farmi imbrogliare. Elia, canotto, lieve volantino accartocciato, veleggiava verso est lungo le fiancate delle navi e dei pescherecci, in mezzo ad un arcipelago di sugheri, di là della New Wapping Street, oltre il traghetto di Benson, e lungo il Tre Alberi Rosewin, proveniente da Bridgewater con un carico di mattoni. Al Midano Artifoni oltrepassò Hall Street e il cantiere Sewall. Dietro a lui Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell, con bastone ombrello spolverino ciondoloni, scansò il lampione davanti alla casa di Mr. Lawsmith e, attraversando, costeggiò Merrion Square. A distanza, dietro di lui, un giovanotto cieco si faceva strada battendo col bastoncino lungo il muro di College Park. Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell camminò fino all'altezza delle gaie vetrine di Mr. Lewis Werner, poi si voltò e misurò di nuovo a lunghi passi Merrion Square con bastone, ombrello, spolverino, ciondoloni. All'angolo della casa di Wilde si fermò. Dette un'occhiataccia al nome di Elia annunciato da un manifesto al Metropolitan Hall, ne dette un'altra al prato distante di Duke's Lawn. Il suo occhialetto rifletteva il sole con lampi stizzosi. Scoprendo i denti di topo, borbottò: Coactus volui. Si rimise in cammino verso Clare Street, masticando quella feroce parola. Mentre oltrepassava le vetrine del dentista Bloom, l'ondeggiare del suo spolverino spostò violentemente dalla giusta angolazione un esile bastoncino picchiettante e proseguì di slancio dopo aver sbattuto contro un corpo senza nerbo. Il giovanotto cieco volse il viso malaticcio verso la figura in marcia. Dio ti maledica, disse inasprito, chiunque tu sia. Sei più cieco di me, figlio d'una troia. Di fronte a Reggie O'Donoghue, il signorino Patrick Aloysius Dignam, tenendo stretta quella libra e mezza di cotolette di maiale di Mangan, già a Fehrenbach, per le quali era stato mandato, si incamminò per la tiepida Wicklow Street, gingillandosi. Era una scocciatura maledetta quella di stare a sedere in salottino con Mrs. Toe, e Mrs. Quigley e Mrs. McDowell e la persiana abbassata, e loro tutti a tirar su col naso e a prender cicchetti di quello sherry rosso sopraffino che lo zio Barney aveva portato a Tanney. Non facevano altro che mangiare briciole di dolce di frutta fatto in casa e spettegolare e mandar sospiri tutto il santo giorno. Dopo Wicklow Lane, la vetrina di Madame Doyle, modista di corte, lo fece sostare. Rimase fermo a guardare i due pugili nudi fino alla cintola e coi pugni in guardia. Dagli specchi laterali, due signorini Dignam in lutto guardavano in silenzio a bocca aperta. Myler Keogh, l'idolo di Dublino, incontrerà il sergente maggiore Bennett, il picchiatore di Portobello, per una borsa di 50 sovrane. Dio, questo sarebbe un incontro da vedersi. Myler Keogh è quello che allunga un diretto all'altro, quello dalla cintura verde. Due scellini l'ingresso, militari metà prezzo. Potrei anche farglieli scucire a mamma. Il signorino Dignam alla sua sinistra si voltò con lui. Quello sono io in lutto. Quand'è? Il 22 maggio, ecco, questo accidente è già successo. Si voltò a destra e anche il signorino Dignam di destra si voltò, berretto sulle 23, colletto rialzato. Nel ritirarselo giù per abbottonarlo, col mento alzato, vide l'immagine di Mary Kendall, incantevole soubrette, accanto ai due pugili. Una di quelle sciacquine che stanno sui pacchetti di vaporine che fuma Stoer. E il vecchio gliela suonate quella volta che gliele trovò addosso. Il signorino Dignam si aggiustò il colletto e seguitò a girellare. Il miglior pugile, quanto a forza, era Fitzsimmons. Un colpo allo stomaco tirato da quello lì ti manderebbe filato al creatore, caro mio. Ma il miglior pugile, quanto a cervello, era Jean Corbett. Prima che Fitzsimmons gli facesse sputare denti e budella, con tutte le sue finte. In Grafton Street, il signorino Dignam vide un fiore rosso in bocca a un elegantone che aveva addosso anche un bel paio di calzettoni e stava a sentire quel che gli diceva l'ubriaco e sogghignava tutto il tempo. Niente tram di Sandymount. Il signorino Dignam si incamminò per Nassau Street, passò le cotolette nell'altra mano. Il colletto gli rimontò su e lui lo ricacciò giù. Quell'accidente di bottone era troppo piccolo per l'occhiello della camicia alla malora sua. Incontrò alcuni scolari con le loro cartelle. Non ci vado neanche domani, sto a casa fino a lunedì. Incontrò altri scolari. Si accorgono che sono in lutto. Zio Barney ha detto che l'avrebbe messo nel giornale stasera. Allora lo vedranno tutti nel giornale e vedranno stampato il mio nome e quello di papà. Il suo viso era diventato grigio da rosso che era e c'era una mosca che ci passeggiava sopra fino all'occhio. Lo scricchiolio mentre avvitavano le viti della bara e i colpi mentre la portavano giù per la scala. C'era dentro papà e mamma piangeva in salottino e zio Barney che faceva vedere agli uomini come dovevano prendere la svolta delle scale. Era una bara grande, alta e doveva essere pesante. Come mai? L'ultima sera che papà si era sbronzato, stava sul pianerottolo a gridare che gli dessero le scarpe per tornare da Tanney a sbronzarsi ancora un po' e sembrava piccolo e grosso con la camicia. Non vederlo più. La morte è così. Papà è morto. Mi ha detto di fare il bravo ragazzo con mamma. Non sono riuscito a sentire le altre cose che mi ha detto, ma vedevo che la sua lingua e i suoi denti cercavano di dirlo meglio. Povero papà. Era mio padre, Mr. Dignam. Spero che sia in purgatorio ora, perché era andato a confessarsi da padre Conroy sabato sera. William Humble, conte di Dudley e Lady Dudley, accompagnati dal tenente colonnello Easeltine, uscirono in carrozza dopo colazione dal palazzo del viceré. Nella carrozza che seguiva erano la onorevole Mrs. Paget, Miss De Courcy e l'onorevole Gerald Ward, aiutante di campo al seguito. Il corteo uscì dal cancello meridionale di Phoenix Park, salutato da guardie ossequiose, e proseguì oltre Kingsbridge lungo la riva nord. Il viceré fu oggetto di cordiale omaggio lungo il percorso attraverso la metropoli. Al ponte Bloody, Mr. Thomas Kernan, dall'altra parte del fiume, lo salutò inutilmente da lontano. Tra il ponte della Regina e il ponte Wentworth, le carrozze del viceré Lord Dudley passarono e non furono salutate da Mr. Dudley White, BLMA, che stava sulla riva Arran davanti al negozio di pegni di Mrs. M.A. White all'angolo di Arran Street West, strofinandosi il naso con l'indice. Indeciso, si avrebbe fatto prima ad arrivare a Pittsburgh con tre cambi di tram, o con una carrozza, o a piedi passando da Smithfield, Constitution Hill e la stazione capolinea di Broadstone. Sotto il portico del Palazzo di Giustizia, Richie Golding, con la sua borsa di Golden Collis e Ward, lo vide passare con sorpresa. Al di là del ponte di Richmond, sulla soglia dello studio di Reuben J. Dodd, procuratore, agente della compagnia Patriottica Assicurazioni, una signora anziana, sulle mosse di entrare, cambiò idea e, ritornando sui suoi passi lungo le vetrine di King, sorrise credula al rappresentante di Sua Maestà. Dalla chiusa che si apre nel muro della riva Wood sotto l'ufficio di Tom Daven, il fiume Puddle tirò fuori in omaggio una lingua di liquidi scarichi. Da dietro le tendine dell'Ormond Hotel, oro accanto a bronzo, la testa di Miss Kennedy accanto alla testa di Miss Deuce osservarono e ammirarono. Sulla riva Ormond, Mr. Simon Dedalus, che si dirigeva dal Vespasiano all'ufficio del sottosceriffo, rimase fermo in mezzo alla strada e si cavò il cappello. Sua Eccellenza graziosamente restituì il saluto a Mr. Dedalus. Dall'angolo di Cahill il reverendo Hugh C. Love, M.A., fece una reverenza inosservata. Memore di vicari feudali, le cui mani benigne, tempo già fu, ebbero facoltà di dispensare ricchi benefici ecclesiastici. Sul ponte Gretten, Lenean e McCoy, congedandosi l'un dall'altro, guardarono passare le carrozze. Passando davanti agli uffici di Roger Green e alla grande tipografia rossa di Dollard, Gertie McDowell, che portava lettere dalla ditta Linoleon Catesby a suo padre, che era a letto malato, si accorse dallo stile che erano il Lord Luogotenente e la Lady Luogotenente, ma non poté vedere come era vestita Sua Eccellenza, in quanto il tram e il grosso furgone giallo dei traslochi della ditta Spring dovettero fermarsi davanti a lei proprio perché si trattava del luogotenente. Oltre l'Handyfoot, John White Nolan, dalla soglia della bottiglieria Cavanagh, sorrise con inavvertita freddezza verso il Lord Luogotenente Generale e Governatore Generale d'Irlanda. Il molto onorevole William Humble, Conte di Dudley, GCVO, passò davanti agli orologi che segnavano tutte le ore di Mickey Anderson e ai cerei manichini dei bei vestiti e dal bel colorito di Harry e James, il Gentleman Harry, Dernier Cri James. Con le spalle a Dame Gate, Tom Rochford e Nosey Flynn videro avvicinarsi il corteo. Tom Rochford, vedendo gli occhi di Lady Dudley su di sé, tirò fuori in fretta i pollici dai taschini del panciotto rossiccio e le fece una scappellata. Un incantevole soubrette, la grande Mary Kendall, con le gote sgargianti e la sottana alzata, sorrideva sgargiatamente dal suo cartellone a William Humble, conte di Dudley, e al tenente colonnello H.G. Easeltine, e anche all'onorevole Gerald Ward, A.D.C. Dalla vetrina del D.B.C., Buck Mulligan allegramente e Hines gravemente dettero un'occhiata al cocchio del viceré al di sopra delle spalle degli altri clienti entusiasmati, le cui sagome ammassate facevano ombra alla scacchiera che John Howard Parnell fissava intensamente. In Fawn Street, Dilly Dedalus, alzando la testa dalla grammatica elementare francese di Chardenal, sforzò gli occhi e vide parasoli aperti e raggi di ruote che turbinavano nel bagliore. John Henry Menton, riempiendo di sé il vano della porta della camera di commercio, fissò con occhi di pesce morto, pregni di vino, tenendo nella grossa mano sinistra un grosso orologio d'oro che lui non guardava e la mano non sentiva. Là dove la zampa anteriore del cavallo di Re Billy scalciava in aria, Mrs. Brin tirò indietro il marito frettoloso, che già stava per rimanere travolto dagli zoccoli dei battistrada. Gli urlò all'orecchio di che si trattava. Avendo capito, egli spostò i tomi sulla mammella sinistra e salutò la seconda carrozza. L'onorevole Gerald Ward A.D.C., piacevolmente sorpreso, si affrettò a rispondere. All'angolo di Ponsonby, un fiasco bianco stanco morto H si fermò. E quattro fiaschi bianchi col tubino si fermarono dietro di lui, E, L, Y, apostrofo S, mentre i battistrada caracollavano oltre seguiti dalle carrozze. Di fronte al negozio di musica di Piggott, Mr. Dennis J. McGinney, professore di ballo, eccetera, delle gaie vesti, camminava solennemente, sorpassato da un viceré e inosservato. Lungo il muro del prevosto arrivò Arzillo Blazes Boylan, scarpe gialle e calzini fantasia azzurro cielo, al ritmo di La mia ragazza è dello Yorkshire. Blazes Boylan presentò al pettorale azzurro cielo e al passo baldanzoso dei cavalli di testa una cravatta azzurro cielo, una paglietta dalle tese larghe messa sulle 23 e un vestito di sargia color indaco. Con le mani nella tasca della giacca dimenticò di salutare, ma offrì alle tre signore la balda ammirazione dei suoi occhi e il fiore rosso tra le labbra. Scarrozzando giù per Nassau Street, Sua Eccellenza attirò l'attenzione della sua china consorte sul programma di musica che stavano eseguendo al College Park. I fieri ragazzoni degli Highlands, invisibili, strombettavano e stambureggiavano dietro al corteo. Benché lavori all'officina e non si metta bei vestitini, barabum, tuttavia ne vado matto per quella Rosellina. Per quella Rosellina dello Yorkshire, barabum. Di là del muro, i corridori dell'handicap del quarto di miglio piano, M.C. Green, H. Shrift, T.M. Patti, C. Scaife, J.B. Jeffs, G.N. Murphy, F. Stevenson, C. Adderley e W.C. Haggard partivano l'uno dopo l'altro. Passeggiando a grandi passi davanti al Finn's Hotel, Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell lanciò attraverso un occhialetto furibondo, al di sopra delle carrozze, un'occhiata alla testa di Mr. M. E. Solomons a una finestra del vice consolato austro-ungarico. In fondo a Leinster Street, vicino alla pusterla di Trinity, un fedele suddito di Sua Maestà, Hornblower, si toccò il berretto di battitore. Mentre i lucenti cavalli caracollavano nei pressi di Merrion Square, il signorino Patrick Aloysius Dignam, in attesa, vide uno scambio di saluti con quel signore del cilindro e anche lui si levò il berretto nero nuovo con le dita unte di carta di cotoletta di maiale. Anche il colletto gli saltò su. Il viceré, diretto all'inaugurazione della pesca di beneficenza Mairas per la raccolta dei fondi a beneficio dell'ospedale Mercer, si muoveva col suo seguito verso Mount Street inferiore. Oltrepassò un giovanotto cieco di fronte a Broadbent. In Mount Street inferiore, un pedone con un Macintosh marrone che mangiava pan secco attraversò veloce e incolume la strada al viceré. Al ponte sul canale reale, dal suo cartellone, Mr. Eugene Stratton, carnose labbra ghignanti, dava a tutti il benvenuto nel quartiere Pembroke. All'angolo di Eddington Road, due donne sporche di sabbia si fermarono, un ombrello e una borsa in cui sbattevano 11 telline, per contemplare il signor sindaco e la consorte, ma senza la catena d'oro. Sulle strade di Northumberland e Lansdowne, Sua Eccellenza restituì puntualmente il saluto ai rari passanti di sesso maschile, il saluto a due scolaretti al cancello del giardino della casa che si dice la defunta regina avesse ammirato quando visitò la capitale dell'Irlanda con suo marito, il principe consorte, nel 1849, e il saluto ai robusti pantaloni di almidano artifoni inghiottiti da una porta che si chiudeva.